I am a flower pot sitting on the subway platform dreaming of a southern sky. I am the southern sky. Bruised hues of blues in inner city with an oceanfront view. A Holy Ghost tongue possessed between the pews. Sleepless in the twilight. A vision board invisible to eyesight. Loose hips humming under summer porch lights. I'm the djembe drum. Rhythm spun between love-drunk knees. I'm a runaway river. A sawed-off shotgun creeping through the leaves. A kiss that quivers. A machete that bleeds. I'm the bananas on Josephine's skirt. A brown liquor flirt. The gardenia in Billie Holiday's hair. I'm a blues song in a cigarette's glare. A beaded Zulu hat on Makiba's head. Bob Marley's lock. A natty dread. I'm Marcus Garvey's last microphone. Ancient lady of Grace Nefertiti's royal throne. I'm a poem. I'm a poem handwritten by La Lupe on the Malecón. A grassroots meeting of orishas in the basement of a brownstone. I'm a homegirl, homegrown made of magic. A mermaid of memory swimming through tragic times. I'm the one that got away. I'm the love, I'm the love. I'm the love I never had. A cipher of butterfly wings. I'm a little girl who had big dreams and prayers in my mother's purse. I'm the color of Saturday bouncing off the walls. I drizzle in the wind like a sun shower shawl. I'm the final hour before the moon rests. I'm what a day looks like, honest and undressed. I'm la cascarilla on the door, windows, and vents. A protector of realms. A protector of realms. I'm a Bwiti shaman who ascends. I'm the mirror. I am the mirror. I am the mirror. I'm the root and the end. I am. I am. I am not that I am. I am and we are. We, you and me, I am because of you. We're here together. There's no me without you. I am. I said there's no me without you. We are. We, I am, because we are. We are. I'm only possible because we are. You and me. We are. Woo! I am. You made me possible. I am. Ooh, I am. I am. I am because we are. Ciao a tutti, io sono Lollo Cat, questa è Club Chimera e quella che abbiamo ascoltato non è Leonard Cohen, ma è Aja Monet, con la canzone I Am, prima traccia dell'album When the Poems Do What They Do. Per chi magari ci sta ascoltando online per la prima volta e non ha ascoltato nessuna puntata dell'anno scorso, vi chiederete, certo che non è Leonard Cohen, come mai ce lo dici? Perché Club Chimera è nata l'anno scorso come una rassegna radio dedicata alla musica, al suono e all'ascolto, e si è iniziata ogni puntata con la traccia Listen to the Hummingbird di Leonard Cohen. Una traccia che invita ad ascoltare, ad aprire l'orecchio, per mettersi in ascolto di tutto quello che non è visibile, degli immaginari che vengono aperti dalle cose non concrete, dalle cose che non riusciamo a vedere ma possiamo immaginare, come la figura della chimera che ci ha sempre guidato, come questa figura che non è una figura indefinita, immaginaria, che non riusciamo mai a raggiungere, non riusciamo mai a descrivere pienamente, ma che forse in qualche modo riusciamo ad ascoltare. Gli svarioni sull'ascolto sono partiti anche dalla mia tesi magistrale in cui avevo appunto parlato di ascolto come di uno strumento che ci può invitare a un'apertura diversa rispetto a quella di un altro strumento di conoscenza che viene usato molto più spesso, che è quello della vista. Nelle mie tesi provavo a proporre che la nostra cultura, la nostra società hanno pensato alla vista come uno strumento che spesso diventa oggettificante e che pone distanza tra chi guarda e chi è guardato. L'ascolto invece tende ad aprire di più, ad abbracciare il mondo che ci circonda. Quindi nella mia tesi, come anche in molte puntate dell'anno scorso, abbiamo proprio parlato dell'ascolto come attività percettiva. Ovviamente però questo è stato un pretesto per parlare di un modo di stare al mondo, per parlare di un modo di stare insieme, non semplicemente di un modo di ascoltare e percepire. Per esempio nella mia tesi avevo scritto che l'ascolto dell'altro è qui nella tesi, trattato da un punto di vista di filosofia estetica e della percezione. Tuttavia, una conseguenza implicita delle tesi qui proposte è che la strada può e deve proseguire verso una filosofia sociale che concepisce l'ascolto come atto di cura e riconoscimento. Nel corso delle puntate dell'anno scorso, che sono iniziate appunto con me da solo a parlare di percezione, poi sono diventate puntate con ospiti e poi Club Chimera è diventato un collettivo, si è espanso oltre alla radio, abbiamo fatto tante cose. Si è messa in pratica questa cosa di iniziare prima a parlare di ascoltare come modo di essere e poi di ritrovarci a stare insieme come modo di essere e modo di fare le cose. Ed è questo il motivo per cui ho deciso di cambiare sigla quest'anno e di mettere in pratica questo passo dall'ascolto come percezione all'ascolto come cura e all'ascolto come pratica dello stare insieme, che ovviamente diventa oltre all'ascolto anche uno sguardo non oggettificante, diventa anche un toccarsi, un percepirsi, un sentirsi vicini e vicine. E per questo la sigla è diventata I Am di Aja Monet, una canzone nel quale la poetessa descrive tutte le cose che definiscono ciò che lei è, partendo dagli spazi che ha attraversato, dalle persone con cui ha condiviso le proprie esperienze, e arriva a dire alla fine I am because we are. Io sono perché noi siamo, e quindi a riconoscere che non c'è l'essere dell'io senza un essere del noi. Allora ecco, ho pensato di partire da qui, da partire da un noi e da avere come tematica per le puntate di quest'anno un ascolto che si fa di più che ascolto dei suoni e diventa un ascolto di chi siamo, quindi una ricerca dell'io che però passa e deve passare necessariamente attraverso il noi. Ovviamente non è un caso che in questo periodo io abbia pensato a una tematica così. In questo periodo in cui anche a livello e soprattutto a livello storico e globale è sempre più difficile vedere e sentire cosa voglia dire davvero stare insieme, in cui un sistema oppressivo, capitalista, imperialista, come lo vogliamo chiamare, tutti gli ismi del nostro sistema si mettono insieme per definire un chiaro io che è diverso da un loro, dove il loro viene sempre più disumanizzato. Lo vediamo ovviamente esplicito nel genocidio che sta accadendo davanti ai nostri occhi. E ci domandiamo, ma perché non è possibile vivere insieme? Cos'è che non ci permette di davvero riuscire a stare insieme? E in questo momento in cui anch'io è oramai da un anno, due anni che mi avvio alla pratica artistica, continuo a domandarmelo che senso ha che io cerchi dei momenti per stare insieme nella mia bolla di persone quando a poche centinaia di migliaia di chilometri da qua la gente viene massacrata solo perché è un loro palestinese invece che un io occidentale. E quindi la domanda diventa: come facciamo a reimparare a stare insieme? È una domanda che si era posto anche Timmy Thomas nel 73, quindi durante la guerra in Vietnam, un'altra guerra causata dallo stesso sistema di cui si parlava prima. E Timmy Thomas canta questa domanda nella canzone Why Can't We Live Together? Credo che si possa imparare una cosa dall'ascolto di questa canzone, che è piacevole, è una canzone conciliante, ma c'ha dei suoni che sono in qualche modo fastidiosi, soprattutto se la si ascolta in cuffia. E riflettendo per preparare questa puntata ho pensato che forse è anche un modo di raccontarci che in effetti stare insieme non è sempre facile. Porta sempre con sé del conflitto, porta sempre con sé una rinegoziazione di quello che siamo e di come possiamo in qualche modo essere insieme. Non è sempre una passeggiata in cui ci si tiene per mano e semplicemente si è felici insieme. C'è sempre un... anche della difficoltà. E anche una cosa che ci racconta Derrida, che ha tenuto dei seminari dedicati all'ospitalità. E faccio partire mentre vi racconto di questo filosofo assolutamente ambiguo, incomprensibile, metaforico, pazzo floreale, ma di quella pazzia che tu lo leggi, non capisci nulla, però poi ti rimane in testa e le metafore che ha usato ti fanno pensare: ah ok, in realtà ho capito, era semplicemente un fiore quello che avevi scritto, devo guardarlo e basta senza cercare di capirlo, e allora poi lo capisci. E altrettanto ambigui, effimere, sono delle tracce che Ryuichi Sakamoto ha composto in un album chiamato effettivamente Derrida e dedicato al filosofo. E Derrida ha tenuto questi seminari dedicati all'ospitalità, in cui parla di un'assonanza semantica e anche concettuale tra quella che è l'ospitalità e quella che è in realtà l'ostilità. Per cui Derrida fa una differenza tra l'ospitalità cortese, un'ospitalità di buona educazione, che pone però delle condizioni. Io ti ospito in casa mia, però ti devi comportare in questo modo e in quest'altro. Devi usare la forchetta e devi, non lo so, andartene via prima delle 11, perché poi io dopo vado a dormire. E invece poi c'è un'ospitalità assoluta. Un'ospitalità che deve porre zero condizioni, che deve accettare l'altro per quello che l'altra persona è, indipendentemente da qualsiasi cosa possa succedere o da qualsiasi caratteristica questa persona possa avere. Questa ospitalità, dice Derrida, in realtà è molto difficile da mettere in pratica per davvero. Richiede una postura etica senza precedenti, perché nel momento in cui ci apriamo incondizionatamente vengono anche meno i limiti che avevamo imposti per rimanere noi stessi, e quindi l'altro diventa non solo un compagno, ma anche un essere estraneo che entra in me, e quindi potenzialmente un nemico. E quindi come facciamo a ospitare senza condizioni un nemico? Derrida usa una metafora che è quella della porta e dice: l'ospitalità deve aprirsi all'altro senza condizioni. Se la porta è sempre aperta, che ne sarà della nostra casa? Ma se la chiudiamo troppo, cosa perdiamo di ciò che potremmo incontrare? Da questa polarità non si esce mai del tutto. Il rischio di essere feriti o delusi ci accompagna sempre, così come la possibilità di una relazione vera. Quindi viviamo in questo rischio da una parte di essere feriti dall'altra persona, dall'altra parte di essere delusi dall'assenza dell'altra persona. Qual è la soluzione? Metaforicamente la soluzione è quella di vivere sulla soglia, né dentro né fuori, insieme all'altra persona che diventa far parte di noi, però rimanendo là insieme in questa porosità un po' ambigua, in cui l'io e il tu si perdono nei confini della soglia e quindi nei confini del noi. Thank you. Quello di vivere sulla soglia è un po' quello che abbiamo provato a fare l'anno scorso in puntate di Club Chimera, in cui abbiamo molto parlato di immaginari, di creazioni fantasiose, quindi di un qualcosa che non era né qui né lì, era in un altrove altro. Questa era una possibilità, perché in realtà vivere sulla soglia in questa società non è tanto facile, perché ci hanno educato, ci hanno formato, ci hanno scolpito per analizzare tutto, per mettere tutto in caselle, in file Excel, per capire che una cosa deve essere o bianca o nera, o vicina o lontana, o amica o nemica. E quindi è sempre difficile stare in quel in mezzo, in quell'ambiguità che avevo chiamato un'ambiguità del noi. Un modo per farlo è quello di rifugiarsi nell'immaginario, nel fantasioso, nel né bianco né nero, perché è tutto sfumato. Però un modo non tanto concreto. È il modo della chimera, è il modo di Dino Campana. Nella chimera inizia scrivendo non so. È un poema che inizia con non so, quindi un non sapere. Finisce con un ti chiamo chimera. Quindi è questa ricerca continua di questo immaginario che non esiste. Ma rimane sempre poco concreto, non è davvero una ricetta all'imparare a stare insieme. C'è una poetessa che negli anni 60, Isabella Rosselli, che scrive La libellula, riprendendo la chimera di Dino Campana, e però concretizzandolo un po' di più, avvicinandolo all'amore. La poesia di Dino Campana era già una poesia d'amore, però un amore verso appunto una chimera, non verso una persona. Isabella Rosselli scrive questo lungo poemetto che è dedicato a una persona, cioè un tu amante molto chiaro. Anche lei ancora non sa, anche lei nell'incertezza, e scrive: io non so se tra il sorriso della verde estate e la tua verde differenza vi sia una differenza. Io non so se io rimo per incanto o per travagliata pena. Io non so se rimo per incanto o per ragione, e non so se tu lo sai che io rimo interamente per te. E ancora non sa, dice, ed io non so cosa cerco, una battaglia di navi, un pesce con la bocca aperta, un fardello troppo pesante, una luna rossa che spiuma. Una cosa bella di questo poema è che continua a richiamare il poema di Campana, trasformandolo, e quindi inizia già a diventare, forse attraverso appunto l'amore, la capacità di amare, inizia già a diventare una capacità di stare nel noi, di prendere qualcosa che è diverso, qualcosa di altro, e farlo proprio. Per esempio, richiamando quel e ti chiamo chimera di Dino Campana, Rosselli scrive: ed io ti chiamo, sirena, ci sono solo, e tu suoni e risuoni, risuoni e risuoni, o chimera, e perciò io ti chiamo e ti chiamo e ti chiamo chimera, e ti chiamo e ti chiamo e ti chiamo sirena. E quindi è questa sfumatura tra la sirena, la chimera e la sirena, che diventa un noi indefinito. Forse, grazie a questo innamoramento, potrebbe essere una possibilità. Perché in effetti l'amore spesso ci insegna a stare insieme. È una risposta alla domanda che ci siamo posti, come facciamo a stare insieme. Però lo sappiamo benissimo tutte quante che è anche una risposta un po' illusoria. Ogni tanto ci illudiamo di amare, e in realtà era solo infatuazione. E soprattutto non possiamo amare tutto e tutte le cose del mondo sempre con la stessa costanza. Quindi forse non è la risposta davvero concreta alla domanda come facciamo a conoscerci, a scoprirci. Però dall'amore impariamo forse a guardare con gli occhi, con degli occhi diversi. Per esempio c'è questa canzone di Pipilotti Rist che si intitola To See How You See, quindi guardare come tu guardi, che io avevo interpretato inizialmente come una canzone d'amore. Poi in realtà riascoltandola, a parte che è abbastanza strana e contorta per essere una... Vabbè, tutte le altre sono strane e contorte sue, ma non ha proprio l'atmosfera della canzone d'amore. Però racconta... forse più che l'amore, forse qualcosa che l'amore ci insegna, e che è la condivisione. La voglia di condividere, di cambiare punto di vista, di mostrare il proprio punto di vista. E ci riporta di nuovo a Derrida, che nella Torre di Babele scrive che è tutta una traduzione. Non solo quando parliamo una lingua diversa, ma anche lo stesso atto di parlare in italiano a voi che capite l'italiano, in realtà mi sta facendo tradurre delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri da come li ho vissuti a come sto cercando di condividerli a voi. E quindi forse un tentativo per stare insieme è quello di cercare costantemente questa condivisione, questa capacità di guardare come gli altri guardano, di far guardare come guardiamo noi. Parlavamo di questo tentativo di condivisione anche radicale, di far vedere come guardiamo, che però è un'altra illusione, forse un'altra chimera, rifacendoci a Derrida l'idea che è tutta una traduzione, non potremo mai condividere l'esperienza in sé, dovremo per forza tradurla. E c'è però un'altra risposta forse a alla domanda come facciamo a conoscerci, a scoprirci e quindi a stare insieme, che ho trovato nei Minima Moralia di Adorno, che è un altro filosofo assolutamente incomprensibile, che serve perlomeno una laurea per capirlo. Questa cosa mi fa molto arrabbiare, soprattutto nel momento in cui si definisce comunista e dico ok, allora basta un po' il tiro così ti capiscono più persone. Però in modo diverso da Derrida, perché se Derrida era un fiore, quindi all'incomprensibilità della bellezza che però qualcosa ti lascia, Adorno è tedesco. Anche lui usa le sue metafore, le sue cose, ai suoi svarioni, però in modo molto un po' più rigido. E quindi io sto leggendo sto libro per l'università e non riuscivo a godermelo, lo stavo odiando, finché non ho incontrato questo capitoletto chiamato Eliotropio, che mi è rimasto da allora, che era tipo a questo punto 3 o 4 anni fa, e che è stato il capitolo che mi ha fatto iniziare questa puntata, pensare al tema di questa puntata. Intanto, eliotropio deriva dal greco e significa girare con il sole. Si riferisce a un minerale, che è un minerale nero scuro con delle macchie abbastanza luminose, rosse o gialle. E la definizione girare con il sole è presa da antiche nozioni e descrizioni di questo minerale da Plinio il Vecchio, che parla del modo in cui il minerale riflette la luce e dichiara che il sole poteva essere visto in questa gemma come in uno specchio e che le eclissi solari diventavano visibili all'interno appunto degli eliotropii, che infatti venivano chiamate anche pietre del sole. Questo dello specchio è molto importante perché vuol dire che guardando il minerale, rispecchiandosi, si vede qualcosa che è altro, si riconosce un qualcosa di altro che però si era già conosciuto dentro a questa pietra preziosa. Non c'entra nulla il nome del capitoletto con quello di cui parla, se non appunto io credo che la chiave di lettura sia quella di un riconoscimento del sole, quindi di qualcosa che conosciamo benissimo, un riconoscerlo in questa pietra. Il capitoletto, e ve lo leggo praticamente tutto perché credo che ne valga la pena ed è molto corto, parla del momento in cui i genitori di un bimbo ospitano una persona, una loro amica, e dice così: quando i genitori alloggiano un ospite in casa, il cuore del bambino batte forte per l'attesa, più di quanto non sia mai avvenuto sotto le feste di Natale. L'oggetto di quell'attesa non sono i regali, ma la vita trasformata. Il profumo che la signora invitata depone sul comò, mentre gli è stato concesso di assistere all'apertura dei bagagli, ha l'odore che somiglia al ricordo già quando lo si respira la prima volta. Come nelle fiabe le fate parlano ai bambini, così l'ospite parla seriamente e senza degnazione al bambino della casa. Egli le pone domande giudiziose su paesi e persone, e lei, che non ha a che fare con lui ogni giorno e che non vede altro che i suoi occhi affascinati, gli risponde con solenni sentenze sul rammollimento celebrare del cognato e sulle vicende matrimoniali del nipote. Così il bambino si sente assunto e sollevato di colpo nella società misteriosa e potente degli adulti, nel cerchio magico delle persone ragionevoli. Con l'ordine abituale della giornata, può anche darsi che l'indomani si possa fare a meno di andare a scuola, sono sospesi, per così dire, anche i confini fra le generazioni, e la vera idea della promiscuità è quella che si affaccia alla mente del bambino, che non viene ancora mandato a dormire, nonostante che siano già le 11 di sera. Basta un solo ospite a fare del giovedì una festa turbinosa in cui si ha l'impressione di banchettare con tutta l'umanità, poiché l'ospite viene da lontano. E qui faccio una parentesi, cioè potete immaginare la mia felicità, mi ricordavo proprio questa frase, non mi ricordavo che parlasse del giovedì, la mia felicità di rileggerla dopo aver deciso di tenere Club Chimera il giovedì, in cui oggi sono da solo, ma dalla prossima puntata avremo sempre un ospite a farci banchettare con l'intera umanità. Continuo. La sua apparizione dell'ospite permette al bambino, promette al bambino al di là della famiglia e gli rammenta che essa non è qualcosa di ultimo e definitivo. L'attrazione della felicità informe, dello stagno delle salamandre e delle cicogne, che il bambino ha preso faticosamente a dominare e che ha bloccato con lo spauracchio dell'uomo nero, del baobao che lo vuole portare via, gli si presenta di nuovo qui, senza essere accompagnata dalla paura. L'esponente dell'altro, di ciò che è diverso, appare in mezzo ai suoi e in buoni rapporti con loro. La strega che predice l'avvenire, ammessa attraverso la porta principale, si riscatta nella signora in visita e si trasfigura in un angelo salvatore. Essa libera dalla maledizione la felicità della vicinanza immediata, spostandola all'estrema lontananza. È di questo che è in attesa tutta la vita del bambino. E così deve saper continuare ad attendere chi non dimentica il meglio dell'infanzia. L'amore conta le ore fino a quella in cui l'ospite varca la soglia e restituisce i colori alla vita con un impercettibile «sono di nuovo qui, venuta da lontano». E quindi, secondo me, e qua è da mettere in pratica, non lo sto facendo negli ultimi giorni, ma è sempre un ricordo per tutte quante, tutti quanti, forse un modo per imparare a riconoscerci, a riguardarci, a scoprirci, quindi poi a stare insieme, è quella di prendere su di noi lo sguardo del bimbo, che è uno sguardo sempre pieno di meraviglia, sempre pieno di stupore, come se quest'ospite diventa una chimera, diventa questa persona che viene da lontano e parla di cose lontano, ma farlo ricordandoci che l'ospite non è una persona del tutto estranea. Anche l'ospite più estraneo di tutti diventa un riflesso del sole dentro alla pietra, diventa un riflesso di quello che già conosciamo, perché è un riflesso di noi. E quindi immaginare al bambino che vede l'ospite amico dei genitori, che non fa paura, è un altro, ma è un altro che possiamo conoscere, perché non ci mangerà, semplicemente. Al massimo mangeremo insieme. Prima di continuare a parlare dei bambini, c'è un altro artista, Schumann, che ha composto pensando a loro, e ha composto una serie di pezzi chiamati Scene infantili, in cui si immagina delle scene dell'infanzia, non tanto per descriverle, quanto più per evocarle, quindi ancora una volta per creare dei quadretti, delle sfumature di quello che può essere l'infanzia. E ho trovato molto interessante pensare che, diciamo, più o meno 100 anni prima dei Minima Moralia di Adorno, in cui, parlando dello sguardo dei bambini, parla di uno sguardo verso un altro, verso un qualcosa di così affascinante che deve per forza essere venuto da lontano, anche Schumann ha iniziato il suo album di pezzi con un pezzo chiamato proprio Da paesi e persone straniere. E quindi ve lo faccio sentire al pianoforte. anche questo pezzo, l'album tutto, appunto parte con questo pezzo da Paesi Uomini Stranieri, che forse nella melodia in questa apertura iniziale, pom pom, adesso non la canto tutta perché non sono capace, ma ci racconta appunto di questa apertura verso un qualcosa di ignoto, un qualcosa che viene da lontano. Ed è interessante perché poi tutto l'album riprende questa melodia, la scompone, la riutilizza in tanti modi diversi, che raccontano tante scene di vita dell'infanzia. E quindi è di nuovo forse un riconoscersi, ritrovare questa melodia in situazioni diverse, che però sono sempre una variazione sullo stesso tema. E quindi, dicevo, quest'anno proviamo a partire da qua, a guardarci con la meraviglia del bimbo e attraverso quella meraviglia scoprirci e forse capire dei modi per stare insieme anche a chi rappresenta qualcosa di altro, di diverso, di sconosciuto, magari a chi all'inizio non ci sembra neanche così tanto simpatico, ma nel momento in cui cerchiamo di imitare i bambini, aprire la bocca, spalancare gli occhi e dire wow, anche in quella persona troveremo qualcosa di meraviglioso. O se non lo troveremo, almeno potremo immaginarlo. Facendo un po' di ricerca ho visto che anche Leopardi scrive che il fanciullo è più felice dell'uomo perché ha maggior facoltà di immaginazione. Quindi forse basta anche solo quello, ritrovare l'immaginazione e lo stupore nel guardarsi a vicenda. E credo che un adulto che riesca a imparare questo sguardo poi se ne andrà in giro per il mondo con un'andatura un po' simile a quella che viene raccontata dai New Trolls nell'album nella canzone Andrò Ancora, che fa parte dell'album con il titolo meraviglioso Senza Orario, Senza Bandiera, che inizia invece con la canzone Ho Veduto, che vi avrei fatto sentire anche Ho Veduto a proposito di sguardo, ma l'ho già messa l'anno scorso. Quindi quest'anno invece c'è Andrò Ancora, che riprende Ho Veduto, era la prima canzone, parlava appunto di un modo di guardare le cose del mondo con quegli occhi di cui stiamo parlando. Andrò Ancora riprende la melodia, riprende il tempo, riprende tutto, cambia solo il testo, e secondo me racconta della persona che ha veduto con quegli occhi lì pieni di meraviglia e ce lo sta raccontando. Andrò ancora per le strade del mondo con occhi sinceri. Cercherò ovunque il dolore, la gioia dell'uomo. Conterò le lacrime amare di chi soffre. I sorrisi di chi attende con mani protese in avanti. Andrò ancora senza un orario, senza bandiera. Mi chinerò su malati e fontane, su volti dipinti. Camminerò fra sporcizie e danaro senza fermarmi. Andrò ancora e quando tornerò sarò più vecchio e migliore. Non sarò mai ne stanco. Andrò ancora e se tornerò sarò senz'altro migliore. Andrò ancora per le strade del mondo, potete contarci. Il parlare dello sguardo del bimbo in Adorno compare anche in altri capitoletti, non necessariamente il suo sguardo, in modi diversi, comunque parla, spesso compare il mondo dell'infanzia, e secondo me è un po' come antidoto a una situazione che Adorno descrive della società, scriveva negli anni 50, ma che è ancora adesso così. Lui usa una parola che dice già tutto, e la parola è sempre uguale, scritto attaccato. Parla di una mercificazione assoluta del tutto e di tutti e di tutte le cose, che quindi rende qualsiasi cosa una merce, quindi sostituibile, quindi sempre uguale. Per esempio ne parla, parlando dell'industria culturale che viene svuotata di ogni sua forza. Un esempio è quello, lo conosciamo, nel momento in cui non vediamo l'ora che esca l'album della nostra cantante preferita. Finalmente esce, ce lo ascoltiamo, ma due giorni dopo ne sta già uscendo un altro e quindi ce lo siamo già dimenticati e andiamo ad ascoltare la nostra nuova cantante preferita, e quella vecchia rimane nel vecchio, nel sempre uguale, nella mercificazione del sempre uguale. E quindi Adorno dice, forse con questo sguardo pieno di stupore riusciremo a dare davvero sostanza alle cose che guardiamo. Certo, è molto difficile in un periodo in cui neanche i bambini hanno questa capacità di sognare e di immaginare. Penso anche ai bambini nostri, già pieni d'ansie perché respirano tanta fatica, e soprattutto ai bambini a Gaza, in tutte le parti del mondo, che questa capacità di immaginazione gli viene tolta dalle bombe, dalle atrocità che tutti conosciamo. E quindi forse è nostro dovere proteggerli, è nostro dovere continuare a parlarne. E non credo che sia nostro dovere, perché la vita di un bambino valga intrinsecamente di più di quella di un adulto. Io sinceramente sono abbastanza infastidito ogni volta che si leggono cose del tipo 100 vittime tra cui donne e bambini. Credo che la dignità e la significanza di una vita è incommensurabile e quindi non paragonabile rispetto a quella di un bimbo, di un adulto, di una donna, eccetera eccetera. E anzi credo che in questo momento questo discorso a Gaza, in Palestina, venga utilizzato per disumanizzare ancora di più l'uomo arabo, l'uomo palestinese, e nel momento in cui si dice a un bimbo è implicito il dire non è un terrorista perché si impone quell'etichetta. Ma questa è una parentesi, che un sassolino che volevo togliermi dalla scarpa. E quindi dicevo, non credo che sia nostro dovere proteggere i bimbi perché la loro vita vale di più, ma forse perché la loro capacità di immaginare vale di più, perché è qualcosa che ancora ci insegna e che insegna a tutti, tutte e tutto, e che quindi diventa la vita di quel bimbo, la crescita di quel bimbo diventa responsabilità comune. È una cosa che scrive James Baldwin, che dice: "The children are always ours, every single one of them, all over the globe, and I am beginning to suspect that whoever is incapable of recognizing this may be incapable of morality." E quindi dice, i bimbi sono sempre nostri, qualsiasi di loro, in tutto il globo. E inizia a pensare che chiunque sia incapace di riconoscere questo fatto sia incapace di moralità. Allora, avvicinandoci alla fine, vi faccio ascoltare Ritorna da Jamonet, che avevamo ascoltato in apertura, e vi faccio ascoltare un'altra canzone, poesia, spoken music, incredibile, dedicata proprio ai bambini, di cui vi consiglio, se non adesso, se non avete la concentrazione necessaria adesso, di andarla a recuperare. Si chiama For the Kids, e ascoltare questo testo meraviglioso. This poem was written inspired by a Langston Hughes poem. The poem is called For the Kids Who Die. It was written a very long time ago, in 1938. And strangely, or maybe sadly, it still relates to now. Except I wanted to write a poem for the kids who live. For the kids who live. For the kids who live. What becomes of children who survive us? Indigo rosebuds or sunflowers risen of landfills, voices made of tire swings and milk crates, stick figures in sand drawn by fallen twigs. Who looks history in the eye, grins, imagines worlds away within, the power to better love above law, risk above comfort, for the lost and departed, wandering in memories unspoken. Who will unruin this generation? Their right to bloom brilliant, stumble or fall, enchanted by tomorrow's here's to the kids. To the kids who live in Liberty City, bounce house and jumping rope, where no bullet lives to tell a fairy tale. For the kids whose toes dip on shores, songs made of sandcastles and broken glass rinsed by rushing water. Return home to a land that welcomes another way. Where no child is a refugee. Here's to the kids who live to see a world without walls, to the kids who cross-examine borders, time zones, and language, who dab presidents out of rooms and judges out of courthouses, a vote with values, music with no commercials for the preservation of rivers, parks, and birds, to the kids who live. Praise the wind. Praise the wind, the light, and the rain. Here's to the words they speak. Here's to the words they speak, trembling of blameless rage, old spirits thundering on tongues. Here's to holding hands with fortune tellers, to the kids who read palms, a gift with no return address, a world without begging fingers, to the kids who live in food desert burrows, jubilant with full bellies and crops of care, thirst quenched from free fountains. Here's to the kids who live in tears turned from laughter to serious play. May they never know caskets before grayed hair and wrinkled skin like crinkled poems in an old lover's hold. Here's to the ones who live in photo albums, images teased of dreams. Bless the child who remembers, who questions and answers with courage, or the kids who live to bury their elders, bear a new story made possible. A test, a struggle, a journey that reveals the heart. Here's to the kids who live and dare us stand aside. May they embarrass us. May they show us who we are. Here's to the kids who live in us and never leave, resting in the dimples of a mirror. For the kids stretching through a glance, how many kids must die for us to live? Here's to the kids. We gotta protect the kids. To the kids who live in us and demand, may we act in the doing, in the here and now, awestruck and unafraid. Here's to the kids. Shelter. We want medicine, food, and education. and we want to live as the other children live. Quindi eccoci, vi lascio con il compito e l'augurio di guardare all'altro con gli occhi dello stupore e della meraviglia, ma anche di riconoscere che la novità dell'altro è semplicemente un essere di nuovo qui, semplicemente ritornato da molto lontano. E vi lascio anche con un ultimo pezzo al pianoforte che chiude la collezione di pezzi di Schumann, quindi ritorniamo non solo allo sguardo ma anche all'ascolto. Schumann, dopo 12 pezzettini in cui immagina delle scene infantili, chiude con un pezzo intitolato Il poeta che vi parla, e quindi un poeta che ritorna a se stesso dopo essere uscito nell'altro del bimbo, aver cercato di immaginare quello che possa essere stato e possa essere ancora, tenere quella infanzia, quella fanciullezza, e ritorna in sé per la fine dei pezzi e ci lascia con un saluto che sarà anche il mio modo di salutarvi e di dirvi che ci vediamo a novembre. Ci ascoltiamo a novembre.